America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. So he had a bad start, and I would have to say, I think so far what we're watching is the worst 100 days certainly in modern times. David Gergen, ex consigliere presidenziale, commentatore di CNN, ha fatto una dichiarazione, come dire, abbastanza pesante. Dice: è stato un pessimo inizio. Forse Trump riuscirà ad avere la prima vittoria con Neil Gorsuch, che è il candidato alla Corte Suprema americana, si dovrebbe votare appunto oggi. Però continua Gergen, dice: fino ad ora ciò a cui abbiamo assistito sono i peggiori primi 100 giorni di sempre. Ecco, manca poco meno di un mese al traguardo dei primi 100 giorni e devo dire che in effetti Kergen ha ragione, perché il presidente americano per ora ha incassato soltanto molte sconfitte. La riforma del sistema sanitario è fallita, il partito repubblicano è spaccato, ci sono timori che il progetto di riforma fiscale non possa andare avanti nel modo in cui si immaginava. Il Muslim Ban, che blocca l'immigrazione da paesi islamici, è stato bloccato 2 volte consecutive e molti degli ordini esecutivi hanno aumentato le tensioni, soprattutto sui temi ambientali. Ecco, potrebbe esserci una pausa, vi dicevo, per Donald Trump, perché oggi potrebbe avere la sua prima vittoria, la conferma della nomina di Neil Gorsuch alla Corte Suprema. Sembra che i numeri ci siano e dunque si tratterebbe di una notizia positiva in mezzo a tanti problemi. Ecco, in tutto questo cosa succede? La linea Bannon, insomma, secondo me il personaggio chiave in questa amministrazione Trump, il personaggio che sta creando i veri problemi, è Stephen Bannon. Vorrebbe fare una rivoluzione, vorrebbe far saltare tutto per aria, non gli è bastato vincere la Casa Bianca, vuole che Trump diventi uno dei più grandi presidenti americani, cambiando il corso della storia americana. Ecco, però bisogna fare attenzione, perché non è detto che i percorsi che vogliono seguire Steve Bannon e Donald Trump siano i migliori per l'America, soprattutto non è detto che siano i migliori per la corporate America. Per esempio, le grandi aziende americane sono pervase da orrore all'idea che ci sia la minaccia di sanzioni su prodotti europei per una vecchia disputa sulla carne agli ormoni. Insomma, l'idea che si possa fare una guerra commerciale, insomma, non funziona, sappiamo che non funziona, non ha mai funzionato, e quindi che siano gli Stati Uniti, il paese per definizione aperto al libero mercato, tra l'altro è proprio questo di cui Donald Trump viene accusato dalla destra repubblicana, da quei 33-35 deputati che si sono ormai trasformati in un gruppo di irriducibili, e cioè di voltare le spalle al credo tradizionale, non solo del partito repubblicano ma di buona parte dell'America, di tenere tutto aperto, frontiere, immigrazione e così via. Intanto questa settimana c'è un evento importantissimo, cioè l'incontro tra il presidente e il leader cinese Xi Jinping. Ecco, io credo che sia a questo che dobbiamo dedicare la copertina della settimana. Sentiamo. China's Xi Jinping visits for 2 days of talks at the president's Mar-a-Lago resort in Palm Beach. Now, candidate Trump was scathing in his criticism of China. Ecco, Xi Jinping andrà a Mar-a-Lago. Questo è molto interessante. Attenzione, da parte della Cina c'è una proposta di distensione, e la proposta di distensione vuole evitare uno scontro sui dazi con gli Stati Uniti, perché questo porterà inevitabilmente a una guerra commerciale con danni per entrambi. Questo è l'obiettivo di Xi Jinping, di cercare di, come dire, di persuadere Donald Trump che si possono trovare degli accordi senza necessariamente passare per la rottura. E il problema però ce lo danno i dati della bilancia commerciale americana. Il disavanzo commerciale che sta ovviamente angustiando Donald Trump è elevatissimo, 347 miliardi di dollari alla fine del 2016, e nel 2017 le cose potrebbero migliorare ancora nei confronti della Cina. Però Xi Jinping viene in America con una proposta che potrebbe essere irresistibile per Trump: investimenti per parecchi miliardi di dollari, soprattutto nei progetti infrastrutturali. Ricordiamolo, questo è una pietra angolare del programma di Trump. 1.000 miliardi di dollari di investimenti infrastrutturali, strade, ponti, eccetera. Ma nell'incontro non si parlerà solo di economia. Sentiamo Nikki Haley nel suo intervento, donna intelligente, ambasciatore alle Nazioni Unite. No longer take the excuses from China that they're concerned too. They need to show us how concerned they are. They need to put pressure on North Korea. The only country that can stop North Korea is China. Ecco, qui c'è l'attacco alla Corea del Nord. La Cina dice non può limitare alle parole le sue preoccupazioni per la Corea del Nord. Devono dimostrarci concretamente quanto sono preoccupati. L'unico paese che può fermare la Corea del Nord è la Cina. Non siamo noi. È la Cina, e loro lo sanno. E anche Trump ha messo in guardia la Cina sulla Corea del Nord, e dunque non possiamo non immaginare che su questo ci sia una discussione, possano emergere tensioni e guastare in qualche modo questo vertice in cui Trump spera moltissimo, quantomeno per accennare, almeno per accennare, a un rilancio della sua presidenza in difficoltà. Ci sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americanmediaquattro.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non possiamo che dedicarla alla Cina. Ho detto la Cina è la copertina, e dunque di John Baez, China. In the month of May, in the glory of the day, came the descendants of a hundred flowers, and their fight it did begin with the aging Mandarin, and they fought with an extraordinary power. Everyone was smiling, their hearts were da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.